Dagli incontri nascono sempre nuovi stimoli, nuove idee. Ma quando ad incontrarsi sono dei musicisti, ecco che nasce qualcosa di profondamente diverso. Qualcosa che rimane e aggiunge una nuova nota sul pentagramma. L'esperienza dei magnifici e di destini incrociati in un nuovo programma, nel quale, attraverso i loro incontri, i grandi della musica danno vita a sorprendenti connessioni per creare nuovi mondi musicali. Radio 24 presenta I Magnifici Destini, un programma di Giacomo Zito. Le prime volte era un gossip ghiotto per i giornali, anche quelli che, pur definendosi alti, non hanno mai disdegnato un trafiletto. Poi la cosa è diventata un'abitudine e oramai, a parte qualche piccola news, le foto scandalo di Rihanna non fanno quasi più notizie. Già, perché Rihanna, la cantante da 20 top 10 hits in meno di 7 anni, è nota per due sue particolari inclinazioni: vestirsi malissimo o non vestirsi affatto. Eppure la ragazza di talento ne ha da vendere. Insomma, le serve davvero far parlare di sé attraverso tutto ciò che non è musica? Beh, le leggi dello showbiz sono chiare e la risposta è sì. Bellissima, grintosa, carismatica, capace di tenere il palco come solo le sue colleghe del calibro di Madonna sanno fare. Rihanna è davvero la quintessenza della pop star del nuovo millennio. E come tale riesce sempre a finire in prima pagina. Il rapper Chris Brown rischia 9 anni di carcere per avere picchiato la fidanzata e collega Rihanna durante quello che la polizia ha descritto come un litigio brutale. Un tribunale di Los Angeles lo ha formalmente incriminato per una serie di accuse, fra le quali minacce e aggressione aggravata sulla base del rapporto degli agenti di polizia. Altrimenti il cantante 19enne potrebbe cavarsela con 8 mesi di carcere e 4 anni di libertà vigilata. Pare che sia andata così. Siamo nel febbraio 2009, Rihanna è fidanzata con Chris Brown da qualche tempo e trova un messaggio da parte di un'altra donna sul cellulare di lui. Urla, scenata di gelosia, una reazione comprensibile. Finché lui inizia a malmenarla e lei decide di fare uscire le foto in cui riporta sul volto evidenti segni di percosse. Lo fa perché ritiene giusto lanciare un messaggio contro la violenza sulle donne. Dopodiché lascia Brown, anche se adesso si comincia a mormorare di un nuovo avvicinamento. Ma è stato imbarazzante, umiliante farmi vedere così, ma era necessario, non potevo fare finta di niente. In un colpo solo ho perso il mio fidanzato e il mio migliore amico, è stato orribile. Non riconoscevo più la persona che avevo di fianco. A volte i numeri vanno contestualizzati e nel caso di Rihanna è importante sottolineare che i suoi 30 milioni di album e 60 milioni di singoli, cifre da capogiro, sono stati venduti tutti in pochissimi anni di carriera, poco più di 8. Tutto questo rende la giovane Robin Rihanna Fenty, questo è il suo vero nome, una delle artiste di maggior successo commerciale di tutti i tempi. Non solo. Forte del suo successo come cantante, Rihanna ha cominciato a espandere il suo talento e il suo intuito per gli affari in altri campi. Ha recitato al cinema e in televisione e ha debuttato come stilista per il maestro Giorgio Armani. Operazioni di marketing o no, fatto sta che finora Rihanna non ha sbagliato un colpo. Sono giovane, ho scoperto di essere brava a cantare, ma non voglio fermarmi qui. È ancora troppo presto perché io abbia deciso qual è la mia vera strada. Magari un giorno scoprirò che voglio fare tutt'altro, o magari no. Beh, comunque adesso voglio cercare di giocarmi al meglio tutte le mie carte. La vita di Robin Rihanna Fenty comincia il 20 febbraio del 1988 a St. Martin, Barbados, un luogo dove si respira un'aria di eterna estate. I vestiti pesanti non servono, e i soldi ne bastano pochi per vivere in questo paradiso di turisti che per i suoi abitanti è ancora un posto dell'anima. Spiagge incontaminate, natura rigogliosa, venditori di frutta tropicale agli angoli delle strade, lunghi viali su cui si affacciano abitazioni basse e spaziose, ognuna con il suo giardino. Rihanna alle Barbados è considerata una diva ancor più che nel resto del mondo. E se a un passante qualsiasi che conosce la sua famiglia viene chiesto se la ragazza è una figlia delle Barbados, la risposta è sì. Se fosse cresciuta altrove, non sarebbe quella che è. Io appartengo profondamente alle Barbados, al mio paese, alle strade di San Martin. Il mio aspetto viene da lì. Il mio carattere viene da lì. La sua carnagione mulatta e gli occhi verde smeraldo rivelano che la futura popstar è un crogiolo di contaminazioni etniche. Suo padre, Ronald, proprietario di un piccolo negozio, è per una metà irlandese e per l'altra metà barbadiano doc, mentre sua madre, Monica, che fa la contabile, è nata in Guyana, ma ha origini afroamericane. Insomma, un miscuglio che, shakerato alla perfezione, ha prodotto tre ragazzi. Ronald, inoltre, prima di sposarsi con Monica, aveva già avuto quattro figli, due maschi e due femmine. Alla sua famiglia allargata Rihanna è legatissima. Non ho mai avuto una classica famigliola felice, anzi, abbiamo avuto diversi momenti bui che a volte sono durati per mesi. Sono cresciuta con un padre che amavo moltissimo, ma che era dipendente dalla cocaina e non l'ha mai negato. Poi, quando ero una ragazzina, ho dovuto affrontare il divorzio dei miei genitori. Però sono sempre stata molto legata ai miei fratelli, a tutti. Nessuno è perfetto, ma io volevo bene a tutti. La scuola elementare Rihanna la frequenta a St. Martin, la sua città natale. Si chiama Istituto Charles F. Broom Memorial School. Aule essenziali, palme in giardino e bambini con la divisa che stanno seduti nei loro banchi ma non vedono l'ora di uscire e andare a tuffarsi in quello splendido mare che vedono dalla finestra. Tornavo a casa da sola come tutti gli altri. I miei genitori lavoravano e tutti eravamo abituati fin da piccolissimi a uscire e girare per strada da soli. Eravamo molto indipendenti, non solo io e i miei fratelli, anche i miei compagni, intendo. Il negozio di papà Ronald vende un po' di tutto, non chiude mai. Certo, gli orari sono un po' casuali, seguono le esigenze del proprietario, come si usa da queste parti, secondo uno stile rilassato, sereno. La bottega è un vero punto di riferimento per gli abitanti della città e non è un caso se ancora oggi, nonostante la fama planetaria e i guadagni stellari di sua figlia, lui abbia deciso di tenerlo aperto. È qui che ho cominciato a lavorare, proprio in questo edificio, e non voglio lasciarlo. Mi chiedono tutti come mai non cambio le mie abitudini adesso che non avrei più bisogno di lavorare grazie a quanto guadagna mia figlia. Ma il mio lavoro è questo. Sono questi i miei affari. È questo che mi interessa. E anche se vengo un po' meno, sono qui almeno tutti i sabati e un paio di altri giorni. Non potrei vivere senza il mio negozio. Dalle finestre aperte di St. Martin, quello che si sente è musica reggae. E ogni tanto qualcuno esce di casa e si mette in strada a ballare dando il via a una festa improvvisata che coinvolge in fretta tutti gli abitanti. C'è chi porta gli strumenti, chi canta, chi si limita a guardare cercando nell'hashish un aiuto per lasciarsi andare. A Rihanna il reggae piace moltissimo e ancora oggi non smette di ribadire quanto questo genere sia alla base anche del suo stile pop. Io vivo la cultura dei Barbados e il reggae appartiene a essa. Mi sono super ispirata alla musica reggae. È parte di me da quando sono nata e sono cresciuta ascoltandola. Sono cresciuta amandola sempre di più. I miei artisti preferiti sono tutti artisti reggae. E poi non mi stanco mai. Posso ascoltare musica reggae tutto il giorno. È stato emozionante per me usare quelle sonorità per fare una canzone come Mad Down. La vita di Rihanna teenager è organizzata così. La mattina si va a scuola, il pomeriggio si suona con le due amiche e compagne di classe con le quali ha costituito un gruppetto. Le tre provano quasi sempre all'aria aperta, visto che il clima lo consente. Raramente c'è qualcuno che si lamenta per il rumore. E intanto la futura diva del pop intraprende un percorso parallelo entrando in un programma sub-militare. Ruolo cadetto. La allenano i militari barbadiani e Chantelle, anche lei futura cantante. Io cantavo sempre E Chantelle, che anche lei aveva già una grande passione per la musica, un giorno si è messa ad ascoltarmi seduta in un angolo. Mi ha detto che avrei fatto grandi cose e che era certa che sarei diventata famosa. Poi ha cominciato a spargere la voce, sempre di più io e le mie amiche andavamo a esibirci alle feste. Ci chiamavano e a noi bastava divertirci e che ci dessero qualcosa da mangiare e da bere. Se un posto è piccolo, le voci corrono veloci. Beh, in questo caso è la voce che corre veloce, quella di Rihanna. Dalle feste private alle manifestazioni pubbliche, sempre di più lei e il suo gruppo sono chiamate a esibirsi. È già evidente per la grinta con cui tiene il palco e il microfono che ha una marcia in più. Lo sa, e sceglie sempre pezzi che facciano risaltare il suo talento, come quelli di Mariah Carey. With the strength to carry on and cast the fears aside, and you know you can survive. Ho sempre ammirato, a parte il reggae, le grandi voci black. Insomma, le voci di quelle donne decise, capaci di reggere la scena solo con la loro voce, proprio come Mariah. Please don't stop the music. Alle Barbados, paradiso dei turisti, oltre che di chi ci abita, vanno spesso in vacanza molti americani. Americani piuttosto facoltosi, di solito, che cercano un luogo da sogno per staccare dalla vita frenetica della città. È questo che vuole anche Evan Rogers quando prenota la vacanza con sua moglie. Rihanna ancora non lo sa, ma sta per incontrare un magnifico destino. Trovarsi nel posto giusto al momento giusto per qualcuno è un talento. Evan Rogers, musicista e discografico, lo possiede. Beh, ci sono stati così tanti capitoli nel mio viaggio che a volte è difficile da credere. È come guardare un film o qualcosa del genere. Ci si dimentica che si è vissuto ognuno di loro. Ogni momento è stato un viaggio a sé. E ancora adesso io non mi fermo perché so che mi aspettano grandi cose. Newyorkese, Rogers ha scoperto la sua passione per la musica prestissimo. Dopo essersi diplomato nel 77 alla E.O. Smith High School, si è unito al suo amico Carl Storken e insieme hanno cominciato a fare R&B. Bravi erano bravi. Per tutti gli anni 80 hanno spopolato con il loro sound particolarissimo a cui adattavano testi scritti sempre da loro. E nel 78, qualche anno prima che Rihanna venga al mondo, Evans fa il suo primo viaggio alle Barbados. Io e il mio gruppo di allora, i Too Much Too Soon, abbiamo fatto uno scambio culturale alle Barbados, che voleva dire vitto e alloggio in cambio di concerti tutte le sere. Per noi è stato fantastico, I locali erano sempre pieni di gente, tutte le sere. Da quel momento in poi io mi sono innamorato delle Barbados e ho cominciato a tornarci. È il mio paradiso. Non importa se la band si divide, Rogers ormai si diverte anche a fare il produttore di altri artisti. Il suo amore per le Barbados si completa grazie all'incontro con sua moglie, Jackie Jordan, che avviene proprio lì. Insomma, nel tempo lui e Jackie diventano due assidui frequentatori di quel posto incantevole e tra un cocktail, un bagno e una passeggiata, Rogers trova anche il tempo di lavorare. Sono sempre lì e la gente lo sa che faccio il discografico e scrivo canzoni. E così ogni giorno qualcuno mi propone un amico. Sai, devi sentirlo, è fantastico. Io cerco di accontentare tutti, anche se a volte l'amico non è esattamente un talento, insomma. Nel 2004 un paio di vicini di casa bussano alla porta di Rogers e come d'abitudine gli chiedono un'audizione. Non per loro, ma per Rihanna e le sue amiche, che oramai sono conosciute nella zona per i loro concerti. Rogers, disponibile, generoso e intenzionato a non deludere nessuno, dice di sì. Rihanna lo conquista immediatamente. Le è bastato entrare nella stanza per prendere possesso della scena. Si è messa a cantare e immediatamente ha oscurato le altre due. Si comportava come una star. Sembrava che fosse abituata a cantare davanti a migliaia di persone. Ho capito subito che non dovevo lasciarmela scappare. Heard you good with them soft lips. Yeah, you know word of mouth. The square root of 69 is eight something, right? Cause I've been trying to work it out. malefici destini. Mulatta, occhi chiari, bellissima, con turbante. Lei è Rihanna e ai magnifici destini di oggi stiamo raccontando la sua storia. Siamo nel 2004 a Barbados, il paradiso naturale dove la futura pop star dal successo planetario è nata e cresciuta. Con un paio di amiche che frequentavano la sua stessa scuola, ha messo in piedi un gruppetto che passa dalle cover delle grandi cantanti al reggae, il suo genere preferito, e ora sogna di farsi strada nel mondo della musica. Tutto comincia quando le presentano Evan Rogers, grande produttore che a Barbados è di casa. La gente adesso mi chiede, ma te lo immaginavi quando l'hai sentita cantare per la prima volta che sarebbe diventata una star? E io rispondo sempre di sì. L'ho capito subito che Robin aveva qualcosa di speciale e ho subito pensato che doveva registrare qualcosa. È evidente che Rihanna ha una marcia in più rispetto alle altre due. Con la delicatezza di chi conosce la frustrazione di essere messo da parte, Rogers invita la sua preferita a tornare da lui il giorno dopo, da sola, senza le sue amiche. Lei va, accompagnata da sua madre, e canta ancora davanti a Rogers e a sua moglie Jackie. Un trionfo. Un talento da non lasciarsi scappare, con una voce splendida e un aspetto, inutile negarlo, perfetto per bucare lo schermo. Siccome Rogers e Jackie sono in partenza, propongono a Rihanna e sua madre di andare con loro in Connecticut. Le ospiteranno e la ragazza potrà dedicarsi alla registrazione di un demo con il suo talent scout. Neanche a dirlo basta uno sguardo di intesa tra madre e figlia per capire che secondo entrambe è l'occasione della vita. Ero veramente emozionata. È successo tutto così in fretta, dalla sera alla mattina. Certo, mi spiaceva per le mie amiche, ma anche loro hanno capito, mi hanno detto che avrebbero fatto altrettanto. Sono corsa a casa, ho messo 4 cose in valigia ed ero pronta a partire verso la mia nuova vita. La nuova vita di Rihanna comincia nel Connecticut, quando si mette a lavorare con Evan Rogers e il suo amico Carl Starken, un altro magnifico destino. I due credono che sia importante per lei incidere un demo da far sentire a qualche casa discografica e così la aiutano in sala di registrazione. Ci vuole più o meno un anno, non che lei non sia brava, è un'ottima base da cui partire, però devono rimetterle a posto il sound, la voce, scrivere qualche testo ad hoc. Una bella fatica, ma ne vale la pena. Ero una ragazzina e mia madre mi è stata a fianco per tutto il tempo. Ci sono stati giorni in cui ho pensato che non ne valesse la pena. Troppo faticoso, troppo duro subire le critiche. Volevo mollare. Ma quando mi capitava di scoppiare a piangere per la tensione, Evan era bravissimo a tirarmi sul morale. Mi diceva, vai a casa e riprendiamo domani. E io capivo l'importanza dei suoi consigli, anche quando era duro accettarli. Capivo che faceva tutto quello per me. Rogers e Starken vogliono che Rihanna diventi una star. Ecco perché non si occupano solo della sua musica, ma anche del suo look, ben consci di quello che richiede il mercato in questi casi. Prove su prove davanti allo specchio, un taglio di capelli studiato da un noto hairstylist loro amico, una consulente di immagine che si dedica alle scelte in fatto di abbigliamento. E voilà, il gioco è fatto. La ragazza di Barbados è pronta per un appuntamento importante, quello con il magnifico destino Jay-Z. Avevo inciso Pon the Replay, scritta da Sturken, che poi sarebbe diventato il mio primo successo. Oramai ero pronta. Dovevo avere un contratto. Pond Replay, pop contaminato con l'R&B, scritta da Evans e Starken, è uno dei tre singoli incisi da Rihanna e pronti per fare il giro delle case discografiche. Succede che un giorno la canzone arriva sul tavolo di Jay-Z, che è appena stato nominato presidente della Def Jam. Nome d'arte di Sean Corey Carter, Jay-Z è una figura di spicco nella costa orientale per quanto riguarda l'hip hop. I suoi guadagni parlano chiaro. Al momento la rivista Forbes l'ha inserito nella classifica dei cantanti più ricchi del mondo grazie al suo patrimonio personale che supera i 500 milioni di dollari. E ne ha fatta di strada il ragazzo cresciuto per le strade di New York con un fratello tossicodipendente, un padre che ha presto abbandonato la famiglia e una vasta esperienza in fatto di violenza, scippi, scontri con la polizia e spaccio. Comunque, Jay-Z, oggi marito della sua collega Beyoncé, è un mito del rap, ma anche grande fiuto per i nuovi talenti. Il suo parere determina le scelte della sua casa discografica. Ed è per questo se Rihanna, richiamata dalla sua segretaria per un provino, faccia a faccia, dopo che lui ha ascoltato il demo, è più agitata che mai. Continuavo a pensare, oddio, è proprio lì, non posso guardare. Mi ricordo di essere stata estremamente silenziosa, ero molto timida. Ho avuto freddo per tutto il tempo. Ho avuto le farfalle nello stomaco. Ero seduta di fronte a Jay-Z. Non è una cosa che capita tutti i giorni. L'agitazione è normale, soprattutto a 17 anni, soprattutto davanti a un mito della musica. Marianna ha poco da temere. A Jay-Z basta pochissimo per capire che la ragazza ha stoffa e l'aspetto della pop star. Risultato? Non la lascia neanche finire di cantare il secondo pezzo e le propone un contratto con la sua casa discografica per 6 album. I wanna let you know that you don't have to go. Don't wonder no more what I think about you. If it's something that you want, you should make me your girl, your girl. If it's something that you need, then baby, come and share my world. Dopo aver firmato il contratto con la Def Jam, Rihanna passa diversi mesi in sala d'incisione. Il frutto della fatica è il suo primo album, Music of the Sun, che esce il 29 agosto del 2005. Dance, pop, reggae, R&B contemporaneo e ballate romantiche. È questo il mix che rende vincente il debutto sul mercato della cantante barbadiana. Il primo singolo è proprio quel famoso Pond Replay che Rogers e Starken avevano scritto perché lei si facesse conoscere dai produttori più importanti. La canzone è un vero successo e si piazza immediatamente in testa alle classifiche di mezzo mondo. Rihanna, voce calda e aspetto da pop star del nuovo millennio, diventa famosa in fretta. E nello stesso anno in cui esce l'album, trionfa già con un'esibizione al pre-show degli MTV Music Award. Non avevo mai cantato di fronte a tante persone, ma devo dire che su quel palco mi sono subito sentita a mio agio. Jay-Z mi aveva seguito, mi aveva dato degli ottimi consigli e non vedevo l'ora di cantare. Avevo acquisito grinta e sicurezza. Nel 2005 Rihanna ha solo 17 anni, ma sul palco è scatenata. Capelli lunghissimi tenuti indietro da una fascia, grandi orecchini, un costume di brillantini. Canta a piedi nudi, circondata da ballerine anche loro in costume, e punta tutto sul fascino esotico delle sue origini. È un successo. La canzone diventa un fenomeno, uno dei pezzi più messi dalle radio e dalle discoteche in quel periodo. Le persone cominciavano a interessarsi di me. Volevano sapere tutto, non solo della mia musica, ma anche della mia vita privata. Dove ero nata, come ero cresciuta, come avevo cominciato e soprattutto con chi uscivo. Il gossip mi ha seguita fin dall'inizio e ancora oggi non posso andare da nessuna parte senza essere fotografata, tranne a Barbados. Ecco, lì riesco ancora ad avere un po' di normalità. Rihanna, con l'album di debutto, dimostra di avere la stoffa della star. Vende 70.000 copie solo nella prima settimana, per arrivare a più di 2 milioni, che nell'epoca di internet e del download selvaggio sono una bella cifra. Ma il successo, si sa, corre veloce, e i produttori sanno benissimo che quando arriva bisogna cavalcare l'onda per non lasciare andare il momento propizio. Fatto sta che a un mese dall'uscita di Music of the Sun, la cantante barbadiana è ancora in studio. Se mi sono mai sentita un limone da spremere. Sì, ci ho pensato. Ma amo così tanto la musica che mi va bene così. Il mio lavoro è la mia vita. E questa è la strada che ho scelto e non mi lamenterò mai per i ritmi che devo tenere. Mi sento una persona molto fortunata perché ho realizzato prestissimo i miei sogni. A Girl Like Me, un titolo, quello del secondo album di Rihanna, che parla di una ragazza come molte, per cui il destino ha avuto in serbo grandi cose. Tra un concerto e un'intervista, la sua fama cresce esponenzialmente, tanto che è difficile oramai trovare qualcuno nel mondo che non l'abbia mai sentita nominare. I magnifici destini. Da un paradiso naturale come le Barbados al successo planetario. Eccola qui, la storia di Rihanna. Siamo nel 2006 quando esce il disco A Girl Like Me, il secondo di Rihanna dopo il grande successo di Music of the Sun. Vuoi per le sue origini che la fanno propendere istintivamente per i ritmi caraibici, vuoi per la sua passione coltivata nel tempo per la musica, fatto sta che la ragazza dagli occhi verdi sta dimostrando che è capace di far ballare il mondo intero. Quando si divertono gli altri mi diverto anch'io e viceversa. Il pubblico lo sente se ti stai divertendo o se sei obbligato a cantare per contratto. Io per fortuna sono sempre felice di salire sul palco e anche quando ho qualche problema personale riesco a metterlo da parte. Il merito in gran parte suo va anche a chi ha scommesso su di lei, Evan Rogers e Carl Starken innanzitutto, e poi Jay-Z che senza pensarci troppo le ha fatto firmare un contratto da 6 album con la sua casa discografica. Già, Jay-Z, un mito dell'hip hop che fa diventare oro tutto quello che tocca, incluso il singolo che incide con Rihanna nel 2007. Umbrella. Ero terrorizzata la prima volta che ho cantato davanti a lui e poi mi sono ritrovata a cantare con lui, alla pari, sullo stesso palco. Ma chi l'avrebbe detto? 13. I paesi del mondo in cui Umbrella si piazza in vetta alle classifiche. 8,6. I milioni di copie vendute. Incalcolabili le cover da quelle ufficiali a quelle improvvisate. Il successo del brano consacra Rihanna e la fa entrare a pieno titolo nelle icone del pop, ammesso che ancora ce ne fosse bisogno. Tormentone non solo estivo con il suo Ella, Ella, Ella ripetuto all'infinito, Umbrella riscontra anche il favore della critica, oltre che quello del pubblico. Originariamente il pezzo è stato scritto per Mary J. Blige, ma lei ha rifiutato. Lo stesso ha fatto Britney Spears, ben poco lungimirante col seno di poi, che con questo brano avrebbe potuto cogliere l'occasione per rilanciarsi dopo la famosa fase fuori controllo della sua vita. Insomma, Rihanna, che oltre agli occhioni verdi ha un gran fiuto, dice ok. E voilà! Il sound di Rihanna viene forgiato dai suoi incontri del destino un po' alla volta. Una dopo l'altra, le persone che lavorano con lei riescono a tirarle fuori quello che ha dentro e fanno di lei la star che tutti conosciamo. Come Stargate, la coppia di norvegesi composta da Thor Erik Hermansen e Mikkel S. Eriksen. I due fanno base a New York e seguono la cantante fin dal primo album, anche se è a partire dal 2010 che la prendono in pieno sotto la loro ala protettrice. Agli Stargate Rihanna deve molte scelte in fatto di stile e quel tocco di innovazione che la rende diversa da ogni altra pop star. Il fatto di essere una pop star non significa rinunciare alla ricerca musicale, anzi, La gente è abituata a pensare che scrivere una canzone pop sia facile. Invece dietro c'è un grande lavoro. Nessuna hit arriva per caso. Io di questo sono sempre stata convinta. Le collaborazioni sono il pane quotidiano di Rihanna. Solo che se prima era lei a sognare di esibirsi con i grandi della musica, adesso sono loro che chiedono a lei un duetto. A molti dice di no, per non bruciarsi, per non voler essere a tutti i costi protagonista quando il progetto non vale la pena. Ma a qualcuno è entusiasta di dire di sì. Se Rihanna riesce a diventare l'artista femminile con più numeri uno contemporaneamente in classifica, il merito va anche a un magnifico incontro del destino, Eminem. Con il rapper bianco più famoso al mondo, cresciuto nell'8 Mile di Detroit, tra piccole risse, felpe col cappuccio e freestyle, Rihanna incide Love the Way You Lie, che parla di violenza domestica, un tema con cui purtroppo ha già avuto a che fare. La canzone inserita nell'album Recovery di lui diventa immediatamente la settima hit di lei e vende qualcosa come 10 milioni di copie. Per dire, nel 2010 è il terzo singolo più venduto al mondo dopo TikTok di Kesha e Bad Romance di Lady Gaga. All'uscita il poco generoso critico di Billboard, Michael Menachem, spende ottime parole per Rihanna. Il toccante ritornello di Rihanna è la parte più saporitamente melodica e straordinariamente più ottimista. Sembra scritto apposta per lei. Tra tagli e colorazioni di capelli, premi, gossip, foto più o meno vestita, beneficenza, un tira e molla con quel Chris Brown che non le ha risparmiato le botte e singoli che ogni volta balzano nei primi posti delle classifiche, la carriera di Rihanna non ha ancora registrato rallentamenti. Neanche un errore, un calcolo sbagliato, una canzone mal riuscita. Nel 2011 esce Talk That Talk e intanto la ragazza intraprende una carriera parallela come attrice che le dà anche grandi soddisfazioni. Da pochi mesi a dominare tutte le radio del mondo è il singolo Diamonds, tratto dall'ultimo disco Unapologetic. Ma mentre ancora le vendite sono alle stelle, si mormora già di un nuovo progetto. A stare ferma la ragazza delle Barbados non ce la fa, tranne quando, stanca dei suoi ritmi vorticosi, stacca da tutto e tutti e si rifugia per un po' sulle sue spiagge incontaminate. Quelle spiagge in cui il sogno è incominciato.